24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Sono io. Ma pronto, sei proprio tu? Sei proprio tu, la cancellieri? Anna Maria. E meno male che mi hai chiamato, meno male. Aiutami, ti prego, mi puoi... Sistemo io. Ma come puoi sistemare? Dimmi, come puoi sistemare? A modo mio. Mamma mia. Senti, volevo dirti una cosa importante. Ti dico adesso cosa farò. Che cosa farai? Lascia parlare. Esattamente. Di sì o no. Sì, aiutami, sai che possiamo dire? Vabbè, la messa così, la messa così, Fiorello. La messa così, Fiorello, la questione cancellieri, la telefonata, dimmi cosa posso fare. E questo è il tema con cui si apre questa settimana di 24 mattino, cari ascoltatori, settimana numero 27, decisiva per la riforma elettorale, settimana numero 27, decisiva per l'abolizione delle province. Tra l'altro alle 8:15 avremo ospite il ministro Delrio, quello che le province ha promesso le aboliremo. Vabbè, subito saluto Miriam Lucchetti in redazione, Peter Bescapè, il nostro alpino in regia, e siamo pronti ad aprire, sì, il Parlamento. Il caffè volentieri a tutti quanti. Molto bene, molto bene. Allora voglio subito salutare Vladimir Luxuria, buongiorno e bentrovata. Come va? Buongiorno, buongiorno, tutto bene, grazie. Tutto a posto, tutto a posto. Voglio anche salutare Carlo Rienzi del Codacons. Buongiorno, presidentone, buongiorno. Come va? Come va? Buongiorno, buongiorno, tutto bene, almeno insomma, pare. Tutto bene, insomma, il Codacons sarà già scatenato, no, questa settimana. Cosa avete in previsione di mettere in subbuglio e di fare casino? Su che? Ma no, noi stiamo seguendo la vicenda d'Italia, che ci sembra un scandalo. Adesso abbiamo buttato i soldi di Poste, cioè i soldi nostri, e tanto andrà a finire male lo stesso. Purtroppo mi dispiace per i lavoratori. E si cercheranno altri soldi dei cittadini. Che non mi sembra una cosa fatta bene, vabbè. A parte gli aiuti di Stato, tutte le società straniere che avevano problemi sono fallite, e poi certo, si sono riprese in un altro modo. Vabbè, ci sono sempre i cittadini, no? Alla fin fine, come... No, non è consentito. allora, la questione cancellieri tiene ancora banco. Io vorrei subito sapere il vostro parere. Cara Vladimir Luxuria, allora dice il giornale, dice il Corriere della Sera, che avrebbe offerto due volte le dimissioni, due volte le spinte da Letta. Ci sono i renziani un po' in subbuglio, il PD è diviso, tanto per cambiare su questo tema. Si vedrà domani che dirà il ministro cancellieri alla Camera e al Senato, però il tema è che succede, chi dovrebbe fare? Dovrebbe dimettersi? A chi lo chiedi? Sì, a te Vladimir. Ma... parto da un presupposto: esistono delle leggi e c'è già una legge esistente che prevede che se una persona ha dei gravi problemi di salute ha diritto agli arresti domiciliari, c'è un magistrato di sorveglianza, un tribunale di sorveglianza che deve assicurare questo diritto. Invece l'idea che per avere questo diritto, che dovrebbe essere di tutti, diventa un privilegio perché solo se sei amico o se in qualche modo la sensibilità di un ministro ti spinge a fare una telefonata per dare solo a te questa possibilità, c'è qualcosa che puzza. Io credo che succederà come l'affare Ablyazov, quindi difenderanno il ministro della giustizia come hanno difeso il ministro degli interni, nonostante questa brutta figura, perché in nome della difesa di questo governo, delle larghe intese, faranno quadrato e la... Però l'idea ti disturba, l'idea che, insomma, anche se lei dice io ho chiamato per tante persone, l'ho fatto, però, insomma, questa amicizia con i Ligresti... Esatto, questo è ancora più, diciamo così, ancora più grave secondo me, perché comunque il figlio della cancellieri aveva, cioè, c'è un conflitto di interessi, ha lavorato per la ditta lei dice ha lavorato prima, i tempi non coincidono, però sono amiche effettivamente dei Ligresti, però sentiamo le stesse parole del ministro Cancellieri, poi voglio parlare anche di Carlo Rienzi su questo, ma Anna Maria Cancellieri sabato in una conferenza stampa si è difesa così: si dimette una persona che ha qualcosa da farci perdonare, io ho una coscienza limpida e tranquilla. Quindi la mia coscienza è questa. Poi naturalmente, se dovesse essere un peso, se il paese non avesse più bisogno di me, io non ho nessun problema ad andarmene anche subito, ma non lo devono dire. Se Giulia Ligresti fosse morta e il magistrato sapeva che io ero stata interessata e non era intervenuta, secondo lei non avrei avuto forse qualche responsabilità, oltre a quelle morali che naturalmente appartengono poi alla sfera di ciascuno? Lei non pensa che fosse un atto dovuto? Allora, un atto dovuto, Carlo Rienzi, no. Qui che dobbiamo fare? Cioè, ma non ci siamo proprio, prima di tutto. Perché? Il paese non ha bisogno di nessuno, quindi questi che si credono che tutti hanno bisogno di loro, che il paese ha bisogno di loro, calino un po' la cresta. Se bisogno, il paese ha bisogno... Beh, lei dice, io sono un prefetto, mi hanno chiamato, Sì, ho capito, ma si può cambiare un ministro come si può cambiare un parroco in chiesa e quant'altro. Seconda cosa, mettersi a disposizione di un caso singolo che riguarda qualcuno che ha poi un parente, eccetera, eccetera, eccetera, non va bene per un ministro. Quindi il ministro non è che si deve dimettere perché ha fatto una cosa di cui deve essere perdonato, cioè non è che, anche se non ha aiutato nessuno, non ha ottenuto un risultato pratico a favore di Tizio, è una cosa che non deve fare. Ma lei dice proprio questo, dirà questo domani, almeno anticipazione di Repubblica, dice io non è successo niente dopo la mia telefonata, cioè non è che io poi ho insistito a dire allora l'avete liberata, dice ho fatto una chiamata dicendo sapete che so che Giulia Ligresti è malata e soffre la condizione in carcere, punto. Ma non vuol dire niente, non devi dare la disponibilità a fare qualche cosa a favore di un singolo soggetto se non la dai a favore di tutti gli altri ogni volta. Ma lei dice giorno. Che questa telefonata non è come dire fate qualcosa, nel senso liberatela, se cioè, segnalo che Giulia Ligresti sta male. No, ditemi che cosa posso fare. Ah vabbè, questo alla fine alla compagna, alla compagna ma questa è la disponibilità. No, ma certo, Vladimir, mi sono ingamberato, infatti... mi ritrovo qui a difendere la Cancellieri, che è l'ultima cosa che voglio fare al mondo, tra l'altro. Hanno ragione i falchi del PDL, dicendo che è un po' come la telefonata che ha fatto Berlusconi per il caso Rubbia, cioè, comunque se un ministro telefona, se un premier telefona, non è una telefonata per dire come va, tutto ok, è una telefonata che incide moltissimo nel caso di una singola persona. Sì. Poi vorrei dire una cosa sul linguaggio, insomma la Cancellieri ha una certa mole, dire... se dovessi risultare un peso, secondo me, vabbè, il linguaggio in base vabbè, no, comunque quando dice ho la coscienza limpida e tranquilla, tu Vladimir ci credi? Cioè, nel senso punta molto sull'onore, dire se c'è una cosa proprio che mi dà fastidio è infangare l'onore della mia carriera, no? Lei si sta difendendo, io ripeto, dico una semplice cosa: o c'è un diritto di tutti ad avere gli arresti domiciliari per motivi gravi di salute e c'è già un tribunale, un magistrato di sorveglianza che dovrebbe assicurare questo diritto, ma l'idea che tu solo se conosci personalmente una persona questo diritto ce l'hai, se invece sei un migrante che magari ha dei problemi di salute nessuno ti si fila e schiatti in carcere, è una cosa che non piace sinceramente. Allora, sentiamo anche Maurizio Crozza, vabbè, ovviamente questa telefonata è diventata già mitica, no? E quindi anche Maurizio Crozza ha ironizzato così, fingendo e simulando una telefonata di un parente di un detenuto al ministro Cancellieri. Mi scusi se la disturbo, ma ho mio cugino in carcere che sta poco bene. Questo mi dispiace assai. Potenzialmente però potrebbe essere un caso umanitario. Come posso aiutarla? Ma se si potesse liberare... Come no? Mi può gentilmente fornire il cognome del cugino? Sì, Bacci, Bernardo Bacci. Bacci, bacci. Bacci. Ma chi? Bacci? Quello dei Bacci Pallavicino Colonna di Montepulciano? No, no. Ah, no. No, no, no. Ma Bacci chi? Bacci Tronchetti Duca di Colaninno? No, no, Bacci e basta. Bacci e basta? Sì. Aia. Cosa? Non vedo l'umanitario. Cara Vladimir Luxuria, non vede l'umanitario per Bacci e basta, vabbè, è così. Carlo Rienzi, vabbè. No, volevo dire che nel pubblico impiego, nelle pubbliche funzioni, l'incompatibilità o il conflitto di interessi non deve concretizzarsi in un atto che poi va a vantaggio di un soggetto per essere causa di dimissioni. È la potenzialità. Cioè, se io mi trovo in uno stato potenziale, ma è scritto proprio così nel regolamento dei pubblici dipendenti, in uno stato potenziale di conflitto di interessi, anche se non lo realizzo favorendo, già mettere, già creare già le condizioni, mi deve portare a togliermi di mezzo. Vabbè, insomma, sta di fatto che vedremo come va a finire domani. Le previsioni dicono di un ministro cancelliere che ha dato due volte offerto le dimissioni al premier Letta, che le ha respinte due volte, così scrive il Corriere della Sera, e quindi lei ha fatto questa conferenza stampa molto combattiva. Domani è pronta a combattere ulteriormente la Camera e il Senato. La sensazione almeno attuale dai giornali è che si salvi, ci sono i renziani che sono un po' in subbuglio, ma il PDL è a favore, cioè rimanga al suo posto, perché paragonano appunto a Berlusconi, alla telefonata a Ruby, e quindi pare che i numeri ci possano essere, ma da qui a domani chissà che succede. Intanto andiamo a sentire le informazioni sul traffico. 24 mattino. Ho una frase che può spiegare perché è stato deciso di abolire il finanziamento pubblico dei partiti, ed è: chinati giunco che passa la piena. Dottor Milan, buongiorno, mi chiamo Paolo e sono un siciliano. Beh, io dico che arrivato a questo punto, senza distinzione di colore e di estrazione politica, sarebbe ora di appenderli tutti per il collo. Grazie, arrivederci. Tutti a cianciare di voto palese. Se cade lui, cade anche Letta entro il prossimo mese. E l'Italia, bellezza, che bizzarro paese. Ciao Milan, com'è possibile che non riuscite a essere imparziali? Tutto falso, i giornalisti sono falsi, le televisioni false, le banche è un sistema falsato, falso, al servizio solo dei potenti, il governo non ne parliamo, dovrebbe andare a casa. Ma che cazzo di paese siamo? Questo è il paese di Pulcinella, delle barzellette, lo dovete dire. Se un tavolo a Merano costa 100, 150 costerà a Crotone. Caro Alessandro, te voglio far contento e mo te spiego pure la ragione. La differenza è quello che mi scoscia, viene un'altra strada che non è normale. Quando qualcuno se la metterà in saccoscia, se sulla coda non gli metti il sale. Buongiorno Alessandro Milan, sono una mamma di 3 figli. Aspetto da 5 anni un risarcimento per un assegno a vuoto. Perché passa tanto tempo? Perché la giustizia ci mette tanto? La ministra cancelliere è una brava donna, perché non si preoccupa di queste cose? Ho una famiglia in mezzo a una strada, ho bisogno di quei soldi, erano risparmi miei. Vorrei che si faccia qualcosa, non solo per me, ma per tutti quelli che sono nella mia stessa condizione. Buongiorno, ti saluto. Eccoci qua. Poi vedete, tra le varie, no? Carlo Rienzi, tra i vari sfoghi delle persone che magari dicono appendiamole al collo, cioè, ci sono queste telefonate che quando arrivano a me colpiscono molto. E questa signora era molto, come dire, anche in lacrime, non so, nel raccontare questa storia che ha raccontato più lunga, di un assegno a vuoto, che dice mio marito ha fatto a un funzionario di banca, ha dato i suoi risparmi, questo gli ha dato un assegno a vuoto, abbiamo ragione noi, ma sono 5 anni, tutti i risparmi della vita con... Lei riceve questo ogni tanto, noi riceviamo centinaia di mail. No, lo so, ma cioè, questi sono... che si può fare? Perché io, cioè, voglio dire, l'ho mandata in onda, ma... Allora, noi facciamo così, quando il risultato di queste situazioni è dato, per esempio, dall'usura delle banche o di chi presta i soldi più delle volte, facciamo un esposto alla Procura della Repubblica. altre volte facciamo una diffida alla banca. Ma questa signora l'ha fatto perché dice deve essere stata una truffa, cioè ha dato a un funzionario di banca dei soldi e questo gli ha dato un assegno in bianco. E dice sono 5 anni, abbiamo ragione, ma non riusciamo a dimostrare, a prendere i soldi. E questo è un problema della giustizia, la giustizia che non si riforma, i magistrati che non vogliono avere le loro responsabilità. Speriamo che almeno il referendum vada in porto, perché nessuno può toccare questa casta, che è anche quella che poi spende milioni di euro per intercettare Tizio Caio, sì, e non si occupa delle migliaia di piccoli, perché poi sono tantissime le denunce che vengono fatte. Se ci fosse un pool, come c'è un pool, giustamente ci deve essere antimafia, un pool per i reati contro la pubblica amministrazione, cioè un pool per i piccoli reati in ogni procura, sì, che si facesse carico di questo, forse le cose migliorerebbero un po'. La mia sensazione è un po' più brutta, non so, Vladimir Luxor, la mia sensazione è che se qua in Italia, ormai è un paese in cui se non sei potente, se non hai potente vuol dire, cioè, le persone comuni hanno pochi strumenti per farsi difendere, per ottenere giustizia, non lo so, è un po' sfiduciata come analisi, ma è così. Qui prendo a prestito un po' l'ironia molto amara di Crozza, che gente che non ha un cognome così importante. Tra l'altro voglio ricordare che, così come è stata gabbata questa signora, anche tanta gente è stata fregata dai resti, quindi insomma bisognerebbe fare più attenzione a questi casi di gente comune piuttosto che, come dire, insomma, interessarsi solo delle persone che hanno un cognome importante. Allora, vogliamo chiudere in maniera un po'... Ieri c'era questa disfida televisiva, e figurarsi se questo fogliettone, io l'avevo detto, due al processo Concordia, doveva diventare un fogliettone, no? La Moldava, l'amante, la Schettino. Ieri Schettino era da Giletti, sentite Schettino, il comandante. Cosa vuol dire, secondo lei? Praticamente nulla, in quanto il sistema gestionale, le procedure in essere presso la società Costa Crociere non consente a nessuna persona di viaggiare senza titolo di trasporto né di non essere registrata alla partenza. Parlava ovviamente dell'amante Domenica Cemortan, che Vladimir Luxuri ha detto no, ma amante è storia di 6 mesi, noi ci frequentavamo da 2 o 3 settimane, per cui bisogna anche codificare quanto è il margine di tempo per essere definita amante 6 mesi, 2 o 3 settimane, come la potremmo definire, Vladimir? Sono le 6:53, come 2 o 3 settimane, cosa va? Ma gli inglesi la chiamano one night stand, la chiamano generalmente, che potrei tradurre in maniera volgare come una botta e via, forse così la potremmo definire, non lo so. Effettivamente, sì, 2 o 3 settimane è una botta e via. Carlo Rienzi, che... La cosa grave di questo è che si vede che il tribunale si interessa non tanto delle responsabilità della Costa Crociere, ma della relazione. Di aggravare in qualche modo, non sappiamo come, forse dirà era distratto, voleva fare la buffonata con l'amante, eccetera, di un singolo che è responsabile, ma che è corresponsabile rispetto a una compagnia come Costa Crociere, che aveva fatto un macello su quella nave. Ma questo sì, comunque è diventato un feuilleton. Io vi ringrazio, è tempo di giornale radio, ci sentiamo per la rassegna stampa subito dopo. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:19 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali e vi ricordo gli ospiti che avremo oggi dalle 8:15. Avremo ospite il ministro degli affari regionali Graziano Del Rio, colui che ha detto e che ha promesso entro la fine dell'anno verranno abolite le province. Parleremo di questo nella settimana che si apre. Io tengo il conteggio, sapete, su Twitter, sul mio profilo Alino Milan. Si apre oggi la 27esima settimana decisiva di questa legislatura per l'abolizione delle province, oltre che la 27esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Insomma, cercheremo di capire con lui. E poi dalle 8.30 ci sarà anche Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, spesso nostro ospite, per capire, a partire dalle province, ma insomma in generale, visto che le province sono poi una briciola della spesa pubblica italiana, che cosa si può fare per ridurre appunto questi 800 miliardi di spesa pubblica italiana, briciola più, briciola meno, visto che c'è un nuovo commissario per la spending review, dove secondo voi bisogna andare a intaccare. Allora, questo più avanti, ora andiamo a leggere i giornali. È lunedì 4 novembre, i titoli intanto, il Sole 24 Ore, si riapre il rebus dell'IRAP per i piccoli contribuenti, via i 700 milioni stanziati. Questo è il titolo e vedremo più avanti di che si tratta. Per il Corriere della Sera, il caso dei bonus ai giovani. È una vicenda che ieri è emersa appunto dall'articolo del Corriere della Sera, e cioè il bonus alle aziende per l'assunzione dei giovani sarebbe stato finora un flop. C'è anche una difesa del ministro del lavoro Giovannini. Poi la vicenda Cancellieri. Cancellieri, Letta blinda il governo, così è il titolo di apertura di Repubblica, mentre la Stampa ha un'intervista a Epifani, segretario del PD, manovra da cambiare, questo è il titolo di prima pagina. Casa, tornano le detrazioni, questa invece è l'apertura del Messaggero, mentre il giornale, sette mosse per salvare la casa, gli immobili tartassati. Niente ombre sulla giustizia, così apre l'Unità, e la vicenda è quella del ministro Cancellieri. Il governo, meno tasse, ma è scontro nel PDL, invece così apre il Secolo XIX. Visto che noi avremo il ministro Delrio, oggi è interessante il lavoro che Sergio Rizzo scrive sul Corriere della Sera, pagina 9. Il titolo è questo: oltre 11.000 nuovi posti negli asili nido con il taglio della politica nelle province. Questo è il titolo, pagina 9, e c'è proprio anche lo staff del ministro Delrio che dice così: cancellando solo indennità e rimborsi ci saranno fondi per garantire 11.000 nuovi posti negli asili nido. Anche se, scrive Rizzo, è una sfiancante guerra di trincea ormai quella che si combatte sul destino delle province, una guerra cui neppure i calcoli sui risparmi che si potrebbero ottenere eliminando i soli apparati politici, equivalenti secondo un dossier del Ministero degli Affari Regionali a 11.300 nuovi posti negli asili nido italiani afflitti da un deficit drammatico, riesce a imprimere una svolta. Le armi più acuminate sono i numeri che si scambiano i due schieramenti, da una parte i bellicosi esponenti del Partito delle Province, rianimati da una sentenza della Consulta, affermano che la soppressione produrrebbe un aumento dei costi, questa è la tesi cara all'Unione Province Italiane, un paio di miliardi l'anno addirittura. Dall'altra parte invece ci sono i numeri del Ministero di Graziano Delrio. L'obiettivo delle province è allungare i tempi della legge del ministro Delrio per arrivare fino alla prossima primavera, contando che a quel punto sarà impossibile non andare a votare, per rinnovare più di 70 consigli provinciali, col risultato di mettersi al sicuro per altri 5 anni. Dall'altra parte, chi è determinato a fiaccare la resistenza con l'obbligo di far passare prima di Natale quel provvedimento che è già oggetto di un'estenuante melina in commissione alla Camera, presieduta dal pidellino Francesco Paolo Sisto, e il Ministero snocciola dati completamente diversi, a cominciare dai 113.630.000 stimati dalla Bocconi come costo per le sole indennità degli oltre 4.200 politici provinciali, presidenti di giunta, consiglieri. Somma che, come dicevano, potrebbe essere investita, secondo il Ministero di Delrio, in 11.300 nuovi posti negli asili nido. Insomma, guerra di dati, guerra di cifre, e chissà chi la spunterà. Guerra di cifre anche nelle regioni, che secondo molti sono giustamente, vista la spesa pubblica, il vero vulnus degli sprechi. Beh, la vicenda dell'Emilia Romagna è l'ultima che è venuta fuori, tra l'altro ora c'è uno sviluppo. Il capogruppo del Partito Democratico in Emilia-Romagna, Marco Munari, per via delle spese pazze, cede la poltrona di capogruppo, per la verità rimane consigliere in quota democratica. Pensate che ha fatto questa dichiarazione: in questa situazione il rispetto che devo a me stesso, unito all'affetto per il partito che ho contribuito a fondare, per i colleghi consiglieri che mi hanno eletto, mi impone di lasciare immediatamente la guida del gruppo regionale. Avete capito? Per il rispetto che deve a se stesso e ai suoi colleghi. E in realtà la Corte dei Conti vorrebbe un rispetto delle spese, visto che sono contestate decine di migliaia di euro di cene e di notti in alberghi di lusso. Spese pazze in Emilia, Monari cede, via da capogruppo ma tiene la poltrona, così titola per esempio il Quotidiano Nazionale a pagina 11, oppure il Corriere della Sera a pagina 13, alberghi, 30.000 euro in cene, si dimette il capogruppo del PD. Tra l'altro il Fatto Quotidiano su questa vicenda racconta in due pagine, salva rimborsi e Errani ci riprova, il tentativo che avrebbe messo in atto la presidenza dell'Emilia Romagna, l'articolo di Salvatore Cannavò, sono due pagine, ci sta provando in tutti i modi Vasco Errani a mettere un coperchio sulla spinosa vicenda dei rimborsi regionali. Il governatore ha infatti inviato un documento di 3 pagine che il Fatto Quotidiano ha potuto leggere, in cui ha chiesto di proporre un emendamento ai deputati del PD che di fatto è un colpo di spugna nella normativa esistente che riguarda i controlli della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti territoriali. Perché in questa proposta del PD, in questa proposta al PD, tanto che quando hanno visto la lettera i deputati democratici sono impalliditi secondo il Fatto e hanno detto difficile riuscire a far passare di questi tempi una normativa che congela il controllo della Corte dei Conti, perché in uno delle proposte si fa decorrere la normativa solo dal 2013 e scrive il Fatto Quotidiano, siccome i fatti più eclatanti si riferiscono agli anni precedenti, ecco che l'effetto sanatoria appare evidente. Dunque, 2 proposte per mettere a tacere, suggerite ai deputati: applicare la normativa solo dal 2013 e non assoggettare i rendiconti dei gruppi consigliari al giudizio della Corte dei Conti. Questa sarebbe la manovra denunciata dal Fatto, partita dalla regione Emilia-Romagna. Sapete che in queste situazioni che succede? C'è chi rialza la testa, lo fa Francone Fiorito. Ve lo ricordate Francone Fiorito, che sta scrivendo un libro che uscirà nel giro di 2 settimane? Chiaramente il Messaggero cosa fa? Recupera e ricapitola tutti gli scandali più eclatanti delle varie regioni. Weekend, lap dance, ecco la sprecopoli mai finita, pagina 9 del Messaggero, l'articolo di Renato Pezzini che dal nord al sud mette insieme tutte le spese pazze delle regioni. Ed eccolo lì, torna Francone Fiorito, l'uomo del SUV, pagato dalla regione Lazio. Poi dicevano a me, eccolo, intervistato da Aldo Simoni, ora rialza la testa, io non ho rubato nulla. La legge mi consentiva di fare quel che ho fatto, oggi mi ritrovo senza più soldi, i miei conti correnti sono bloccati, le mie auto, i beni sequestrati, mi è stato tolto tutto, perfino il vitalizio regionale mi è stato cancellato con una legge fatta apposta per me. Se non fosse per la mia famiglia vivrei sotto un ponte. Loro invece, loro chi? Quelli che gli sprechi li hanno fatti, e come? Oltre un anno fa io presentai un esposto indicando nomi, cognomi, funzioni alla procura, allegai perfino copia delle fatture delle folli spese in regione. Da allora non ho più saputo nulla. E io i soldi, certo, li ricevevo, ma non ho mai fatto spese pazze. Forse ho sbagliato, ma solo perché non ho controllato il flusso di denaro che arrivava in regione. E allora, vabbè, è Franco Fiorito che ha una condanna, tra l'altro in primo grado, ora c'è l'appello e sta scrivendo un libro, dice: mi sono arrivate centinaia di mail, amici, di sostegno, di solidarietà, ho dovuto spegnere il telefono dopo un'intervista a Rai 1. Il dato di fatto è che rialza la testa. Come dire, vi voglio lasciare con... Io quando l'ho letto ho provato un moto di rabbia, di stizza clamorosa. Ma succede questo in Brasile. Tra 2 giorni ci sarà una conferenza stampa, una lectio magistralis in un'università a Florianopolis sul diritto di vivere. E va bene, il diritto di vivere è un qualcosa importante, un principio fondamentale. Sapete però chi tiene questa lectio magistralis pagato dall'università brasiliana? Cesare Battisti, sì, quello lì, quello che ha 4 ergastoli da scontare in Italia, da terrorista a prof. Battisti dà lezione sul diritto di vivere. Avete capito bene, non di uccidere, il diritto di vivere. Pagina 6 del secolo XIX, una pagina, ma anche sul Quotidiano Nazionale, l'ex terrorista Battisti in cattedra. Il Brasile paga la lezione, 500 euro per una conferenza su chi ha diritto a vivere. Ma poi chi se ne frega che gli diano 500 euro? Proprio che gli diano la parola su un tema del genere, che è quello che mi farebbe sfasciare il microfono in questo istante. 24 mattino. Eccoci alle 7:34 minuti, continuiamo nella lettura dei giornali. Il tema politico del giorno rimane la vicenda Anna Maria Cancellieri, ministro della giustizia, e le telefonate per sensibilizzare sul caso di Giulia Ligresti che si trovava in carcere. Domani il ministro Cancellieri parlerà alla Camera e al Senato e dopo quello che dirà ci sarà un voto, c'è anche una mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle. I numeri sono soprattutto delicati al Senato. Il Corriere della Sera racconta con Fiorenza Sarzanini che per due volte Anna Maria Cancellieri ha presentato le dimissioni a Enrico Letta. Quelle dimissioni offerte per due volte al Premier, le rassicurazioni di Letta. Così la giornata, pagina 11, per due volte Anna Maria Cancellieri ha offerto a Enrico Letta le proprie dimissioni, in entrambi i casi lui le ha rinnovato piena fiducia. Ed ecco dunque la decisione di fare quelle conferenze stampa il sabato, nella quale insomma, ha parlato di onore, ha parlato di coscienza limpida, cristallina, anche se il Corriere ovviamente ricorda i casi precedenti, uno su tutti, Josefa Idem, vi ricordate, 49 anni, a giugno lasciò il Ministero delle Pari Opportunità e lo Sport per una evasione di ICI e IMU. E poi ci fu il caso Alfano, che invece ha superato la vicenda del il caso Shalabayeva, con rispedita in Kazakistan. E poi la Michaela Biancofiore, invece, per la quale Letta ha accettato le dimissioni da sottosegretario. Insomma, questi sono alcuni casi, ovviamente ognuno diverso dagli altri. Anna Maria Cancellieri fa un'intervista, oggi viene intervistata dal Messaggero. Silvia Barocci, la intervista a pagina 7, contro di me metodo boffo, ma io non cedo, c'è il metodo boffo, a cosa si riferisce ministro? Un quotidiano mi attribuisce proprietà mai avute, stipendi mai percepiti, addirittura mi dicono una villa a Genzano che forse avrà ereditato un'altra Anna Maria Cancellieri, ma non io. E tutto questo per cosa? Per alimentare il sospetto di presunti favori che non esistono. Io vado avanti, querelo e non mi faccio intimidire. Il metodo boffo lo abbiamo ben conosciuto in altri tempi. Ora bisogna reagire. E insomma, per nulla, non fa per nulla un passo indietro. Non ho mai brigato per avere posti nella vita. Tutto quello che mi hanno chiesto di fare l'ho fatto con spirito di servizio. Se il mio servizio non va bene, sono certo una persona non attaccata alla poltrona. E dunque, se me lo chiedessero, farei un passo indietro. Ma dovranno spiegare al paese il perché di ciò. Non consento che si passi sopra il mio onore. Io so benissimo che i telefoni possono essere intercettati e quindi quando ho detto alla compagna di Salvatore Ligresti non è giusto, qualsiasi cosa possa fare conta su di me, certo, ma quando ci sono in mezzo valori affettivi, quando vuoi dire a una persona che l'abbraccia e ti dispiace del suo dolore, lo fai. Poi ognuno può leggerle come vuole quelle parole, ma non posso rinunciare a essere un essere umano. Poi dice Anna Maria Cancellieri, se a quelle frasi fosse seguito un mio comportamento scorretto, allora sì, avrei fatto un'interferenza, ma poiché non c'è stato nulla e il mio interessamento a una donna anoressica che rischiava il suicidio non ha di certo inciso sulla decisione della magistratura, come ha spiegato lo stesso procuratore Caselli, ecco che non c'è alcuna interferenza. Vabbè, insomma, si difende così, il PD sembra diviso su questo, soprattutto ci sono i renziani un po'... un po' sulle spine, anche se invece il PDL difende Anna Maria Cancellieri. Secondo quello che sono i rumors dei giornali di oggi, c'è anche un'intervista a Daniela Santanchè sul Giornale che dice: salviamo la Cancellieri, ma lei sia coerente, ammetta che quella telefonata ha analogie con la telefonata di Berlusconi per salvare Ruby. Perché in entrambi i casi, dice Daniele Santanchè, si tratta di un membro del governo che si muove su input di relazioni private dentro una cornice di legalità. Beh, insomma, noi la salviamo, sta di fatto che secondo rumors pare che i numeri per la salvezza, almeno dal punto di vista politico, ci siano per Anna Maria Cancellieri, tanto che, visto che molti giornali dicono i renziani sono più invece sul piede di guerra, ma c'è un'intervista a Simona Bonafè, onorevole, vicina a Matteo Renzi, intervistata dall'Unità, intervistata da Osvaldo Sabato, a pagina 3 dice: non ci possono essere detenuti di serie A e serie B, ma se sarà confermato che non ci sono state pressioni, per me la vicenda è chiusa. E quindi certo alcuni chiedono dimissioni, Pippo Civati chiede dimissioni, alcuni renziani, ma il Movimento 5 Stelle certo chiede le dimissioni, ma sembra al momento che ci possano essere i numeri per poter continuare a sostenere politicamente Anna Maria Cancellieri. C'è anche retroscena, pagina 3 e 1 e 3 di Repubblica, l'alto là del ministro della maggioranza: se non mi credono meglio lasciar perdere. Ma è un retroscena, le parole invece vere e proprie sono nell'intervista al Messaggero. Repubblica dedica varie pagine a questa vicenda, anche come il caso a pagina 4, come si sono conosciuti i Cancellieri Peluso, Peluso è il cognome del marito di Anna Maria Cancellieri, e i Ligresti, i Cancellieri e la Family, una storia di una lunga amicizia nata grazie a una farmacia, la farmacia aperta da Sebastiano Peluso, vale a dire il marito di Anna Maria Cancellieri, proprio nel quartiere dove abitavano i Ligresti. Quel primo incontro risale nella Milano degli anni 70, da lì insomma i rapporti sono rimasti per tutti questi anni. Va bene, chissà come andrà a finire. Massimo Giannini su Repubblica fa anche due pagine: dal Cavaliere alla Cancellieri, il romanzo del potere al telefono, insomma il romanzo del potere raccontato anche attraverso le tante intercettazioni che in tutti questi anni abbiamo trovato ben spiattellate sui giornali. E, per quel che riguarda invece la politica, beh, la politica, il PD continua il tema dei congressi, con anche congressi caos, per la verità, così titola per esempio Repubblica a pagina 11, Epifani riunisce la segreteria del PD, per esempio Vannino Chiti dice a Empoli: tessere vendute a centinaia di immigrati. E questo è un tema che rimane. A Piacenza invece c'è lo scontro tra Paola De Micheli, fedelissima di Enrico Letta, e Roberto Reggi, vicinissima a Matteo Renzi, dopo la vittoria del renziano alla segreteria. Piacenza colpi bassi tra lettiani e renziani, voti comprati, voi non sapete perdere, insomma un caos incredibile, tanto che il Corriere della Sera con Fabrizio Roncone va a intervistare uno dei personaggi più discussi, Vladimiro Crisafulli, da Enna, no? Il barone di Enna, colui che disse: io vinco col proporzionale, con il maggioritario, ma anche col sorteggio a Enna. Ebbene, eccolo qua, il barone rosso dice: terrò e sosterrò Cuperlo, lo faccio per uno sfregio nei confronti dei renziani. Ma scusi, lei fu filmato, la vicenda annosa, nel 2001 quando era con un boss mafioso. Sì, allora vi baciaste perfino sulle guance. Senta, l'indagine a mio carico è stata archiviata. Punto. Fine. Mi chiamano il barone rosso? Ma vede, io ho solo il privilegio di essere stimato. Io i voti non li controllo. La mia forza è la gente che mi rispetta e grazie al cielo non mi fa mai mancare l'appoggio necessario. Ora starò con Cuperlo perché i renziani poco tempo fa sono venuti a chiedermi di sostenere Matteuccio alle primarie. Io gli dissi: non ne volevo sapere. E poi ancora Fabrizio Roncone racconta questo spaccato di un personaggio a suo modo straordinario. Senta, lei nel settembre 2010 è stato rinviato a giudizio per concorso in abuso d'ufficio. L'accusano di aver ottenuto la pavimentazione di una strada comunale che conduce alla sua villa. E beh, risponde Crisafulli. Beh, ma è normale. Guardi che è la strada che è arrivata a me. È una colpa pure questa? Quelli fanno una strada, la strada passa davanti alla mia villa. E io, scusi, che posso farci? Vabbè, ma... personaggio quasi mitologico, Vladimiro Crisafulli da Enna vince col proporzionale, il maggioritario, e pure con il sorteggio, cosa che farebbe comodo al mio Milan. Mauro Meazza, stavolta ti anticipo io, ti frego, così ti tolgo. Buongiorno. Ti tolgo. Buongiorno, la palla. Alessandro. Buongiorno Mauro Meazza, è Sole 24 ore, tutto bene? La nazionale si sta qualificando per i mondiali del Brasile, campionato sospeso. Sto seguendo molto il tennis, in realtà ho visto con piacere come le ragazze si siano in posto nella Fed Cup. Anch'io seguo il calcio, la nazionale e la Pro Sesto, che è seconda in classifica in Serie D. Veniamo ora al Sole 24 Ore. Questa apertura sull'IRAP che vuol dire? Vuol dire che, sai, ci dovevano essere, qui c'è una storia oramai antichissima, nel senso che c'ha una dozzina d'anni oramai. I piccoli lavoratori autonomi, quelli che hanno meno organizzazione, non dovrebbero pagare l'IRAP. Avevano anche stanziato dei fondi perché in qualche modo fosse tutto trasparente il fatto che loro non dovessero pagare, è stato celebrato da plurime sentenze di Cassazione, però ci siamo accorti che via via questo fondo destinato a loro è stato svuotato, destinato ad altre cose, e quindi adesso bisogna capire che fanno, soldi non ce n'è per loro, quindi continueranno probabilmente a non pagare, scaveremo come dire un ammanco, ci sarà un mancato introito, vediamo come va a finire, è tutto collegato nel grande pentolone della legge di stabilità che, certo, come sai, sta impegnando le nostre menti, e non solo le nostre, ma menti anche più importanti delle nostre, per un complesso aggiornamento, bisogna toccarla ma non stravolgerla, i saldi devono restare invariati, e i soldi invece crescono sempre. Hai visto che sotto questa notiziola, sotto c'è questa notiziola delle tasse universitarie che sono cresciute, e come no, cresciute del 63% in 10 anni, più o meno lo stesso periodo appunto delle questioni IRAP. Ecco, non è una notizia buona per chi ha i figli grandi, per chi ha i figli più piccoli, magari come te che sei giovane, ti segnalo questa guida su congedi e permessi lavorativi che si possono prendere, ad esempio, non so se lo sai, anche l'allattamento potrebbe essere chiesto dal papà se la mamma rinuncia. Mi stai a cacciare. No, ti dico, se vuoi prenderti qualche momento di vacanza. Ma magari, caro Mauro, non darmi queste, anzi adesso vado subito a leggerlo. Vai a vedere, perché potrebbe esserci qualche opportunità interessante per te come per tutti. Poi vediamo, se avessi anche dei risparmi da parte, stai all'occhio, lunedì prossimo, che domani diamo una guida sugli affitti molto interessante, e già oggi una serie di risposte sulla cedolare per gli affitti, ma tra 7 giorni, pagine in più proprio tutti i lunedì sugli investimenti per i figli, i soldi, insomma risparmio e famiglia, ecco. Perché questo però da lunedì prossimo, insomma, avevi dato una buona notizia, quei congedi subito mi innervosisci con i risparmi da parte. Beh, sai, no? Dovevo un po' farmi perdonare la questione che sono spariti i soldi, devi mettere da parte dei soldi in più per far studiare i figli, allora mi sembrava così poterti dare magari qualche ora di libertà, mi magari a vedere un po' la tua squadra del cuore. Ma certo, intanto noi giochiamo col Barcellona domani, l'Inter non lo so, noi perdiamo col Barcellona, l'Inter non lo so, cioè giochiamo. Ma io ti faccio i migliori auguri, naturalmente. Ti ringrazio, ovviamente, auguri ricambiati, e ci troviamo domani, caro Mauro, è il momento del traffico. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Sì, eccoci. Allora, c'è una rissa verbale sulle tasse, perché la CGA di Mestre ieri ha detto ci sono più tasse, e il ministero in persona, il Ministero del Tesoro, dopo che anche il ministro dello sviluppo economico Zanonato ha detto basta con i numeri a caso, nel 2014 le tasse caleranno, insomma anche il ministro del Tesoro smentisce la CGA di Mestre. E su questo il giornale a pagina 3 titola: tasse, smascherato il Tesoro, il PD spara sul centrodestra, mentre il sottosegretario Fassina, intervistato dal Messaggero a pagina 3, dice: niente stretta sulle partite IVA, ribadisco, questa è una prima finanziaria anticiclica, tra minori spese e maggiori investimenti restituisce 2,7 o 3 miliardi complessivi, per il prossimo anno le uniche a pagare di più saranno le banche, con 2,6 miliardi di maggiori imposte per i nuovi criteri di svalutazione delle sofferenze. Insomma, Fassina che difende la manovra, anche se dice si può modificare, sono possibili miglioramenti. I miglioramenti richiede a gran voce anche il segretario del PD Epifani, intervistato a pagina 3 da Alessandro Barbera. Occorre fare delle scelte, il segretario fa un'intervista di un'intera pagina a dire: servono 2,5 miliardi sulla crescita, c'è troppo ottimismo, vogliamo più investimenti. Nel 2014 sgravi solo sui redditi fino a 23.000 euro. Poi tra l'altro Guglielmo Epifani in questa intervista alla Stampa dice anche: dove troviamo i soldi? Sono favorevole alla cosiddetta Google Tax, né avrei obiezioni ad aumentare l'aliquota applicata alle cosiddette rendite finanziarie. Così dice Guglielmo Epifani. A proposito di polemiche, è nata ieri una polemica dopo che il Corriere della Sera ha fatto sapere questo dato sul bonus per assumere i giovani. Ci sono state solamente 13.770 prenotazioni di incentivi da parte delle aziende per assumere lavoratori tra i 18 e i 29 anni. E il Corriere ieri ha scritto: ma come, si volevano offrire 100.000 posti di lavoro? E questo ha suscitato una polemica, tanto che il ministro Giovannini, ministro del lavoro e politiche sociali, ha preso carta e penna e scrive al Corriere della Sera una lettera pubblicata a pagina 5, nella quale difende l'impostazione della manovra e dice: ma insomma, sembra coerente consentire alle imprese di attivare assunzioni di giovani nel periodo luglio 2013-giugno 2015 per poi aspettarsi assunzioni in poche settimane? Ovviamente no, capirei la critica se il governo avesse messo tutti gli 800 milioni di euro di incentivi sull'anno 2013 e poi, in assenza di un boom di domande, fosse stato costretto a trasferire tali fondi negli anni successivi. Ma poiché non abbiamo commesso un errore così madornale, forse l'autore dell'articolo, Enrico Marro, avrebbe dovuto riconoscere che il governo aveva previsto correttamente i comportamenti delle imprese in un momento ancora difficile come l'attuale. Cioè, dice Giovannini, questi fondi li abbiamo distribuiti su 2 anni, aspettarsi nei primi mesi domande maggiori alle 13.770 arrivate dalle aziende in un momento di difficoltà è impossibile. Estrapolando il dato e vedendolo nei prossimi 20 mesi, ecco che appare del tutto coerente con le circa 100.000 assunzioni complessivamente finanziabili con gli 800 milioni stanziati per il triennio 2013-2015. Come dire, vedremo i risultati alla fine del triennio e non adesso. Vabbè, tempo di correre, ci sarebbero tanti altri articoli, ma non c'è tempo, e allora voglio solo dire il titolo di apertura della Gazzetta. È arrivata la Gazzetta dopo giorni, sì, perché invasioni barbariche, c'è Barbara Berlusconi che ha tuonato contro il cambiare filosofia e cambiare corso nella società. E chi salta secondo voi nel Milan? Non Galliani e non Allegri, ma pare Galliani, lapsus freudiano. Galliani potrebbe saltare, Galliani sotto tiro. Mentre la gente ora si accorge che Balotelli è stato un acquisto farsa. Io lo dico dal primo giorno. Va bene, ci fermiamo. Prima però, il momento più atteso della rassegna stampa. La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi mezza pagina sul giornale. Simonetta Caminiti che ci racconta. Eccolo lì, lo sapevo. Schettino Domnica, lo scontro si trasferisce in TV. La sapevo, ve l'avevo detto che tutto sarebbe stato trasformato in un feuilleton squallido. La tragedia della Concordia, gli amanti della Concordia monopolizzano lo schermo. Lei su Canale 5, lui su Rai 1, questo ieri. Ma chi se ne frega? Ci sono 32 morti della Concordia. Noi lo trasformiamo in che cosa? Una storia morbosa di quarta categoria. Che schifo! La carta costa. 24 mattino. Eccoci, sono le 8:19 minuti proprio in questo istante. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, chi mi segue su Twitter lo sa, io tengo anche con amara ironia il conto delle settimane decisive, per così dire, per la riforma elettorale, l'abolizione delle province. Ecco, per dire, oggi inizia in questa legislatura la 27esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Allora, ne parliamo con chi ha promesso di volerlo fare e dice: lo farò. Il ministro agli affari regionali Graziano Del Rio, che saluto, buongiorno ministro e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Intanto, Ministro, i domani i dipendenti delle province, mi risulta, vadano in piazza a protestare. Lei che ne pensa di questa manifestazione? Ma noi abbiamo più volte ribadito che dalla riorganizzazione delle province non vi saranno licenziamenti, semplicemente vi saranno maggiori sinergie, si potrà sfruttare al meglio il personale in diversi posti e quindi non devono temere per il loro posto di lavoro coloro che hanno una professionalità della pubblica amministrazione. Certamente non vi saranno più turnover e ricambi come anche in tante altre amministrazioni, perché il nostro sistema pubblico deve imparare a gestirsi con strumenti più moderni, con l'informatizzazione e così via, quindi attendere, è chiaro che vi sarà una riduzione anche di personale, ma non vi sarà licenziamento. Quindi riduzione di personale per mancato turnover, ma nessun licenziamento, perché si svuota, diciamo, il carattere politico delle province. Oggi ho letto questo dato sul Corriere: dai risparmi dello svuotamento delle cariche politiche potremmo investire, dati del suo ministero, 11.300 posti di lavoro di nuovi asili nido. Perché avete fatto questo calcolo? Ma è solo per esemplificare, qualcuno dice che il taglio semplicemente del personale politico è un risparmio da poco, sono comunque 110 milioni di euro che equivalgono a quei posti in asili nido, quindi non sottovaluterei il fatto che 110 milioni di euro di spesa corrente possono essere utilizzati diversamente, francamente, soprattutto però diciamo che il maggiore risparmio che si può ottenere è dal fatto di unire e di semplificare le funzioni delle province, di renderle con poche funzioni, come il federalismo recita. Il federalismo che funziona è un federalismo dove ognuno fa poche cose ma ben definite, e quindi la riforma si prefigge appunto di definire al meglio e con poche funzioni l'attività delle province, e quindi tutte le funzioni generali di amministrazione e controllo che oggi valgono tantissimi soldi, valgono più di 2 miliardi solo nelle province, possono essere utilmente risparmiate. Almeno il 50% di quei 2 miliardi potrebbero essere un risparmio ottenuto nell'arco di un anno e mezzo. Però, Ministro, la legge va approvata entro la fine dell'anno, la legge cosiddetta svuota province che porta il suo nome. E pare ci sia Melina, no? Quell'atteggiamento di esitare all'interno della Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Cioè, verrà approvata entro la fine dell'anno oppure no? Ma noi abbiamo avuto un impegno della Commissione di un iter accelerato, il Governo ha chiesto l'urgenza per dimostrare appunto che crede in questa riforma che riguarda non solo le province ma anche il sistema delle città metropolitane, una riforma attesa da 30 anni, e anche un altro elemento molto importante, il tema del rafforzamento delle unioni dei comuni, cioè comuni piccoli che imparano a lavorare insieme. Quindi abbiamo avuto questo impegno, ci è stato garantito, e ovviamente il Parlamento deve discutere, discutere. È chiaro che se si arriva oltre quelle date si rischia poi di dover convocare di nuovo i comizi elettorali per le province. Cioè, se non si approva entro la fine dell'anno si rischia in primavera di rinnovare quanti consigli provinciali? Tanti, credo. Tutti praticamente, tutti. Quindi il problema, cioè tutti, una buona parte, insomma tutti quelli che vanno a scadenza, che sono un 80%, e a questo punto sarebbe veramente, come dire, una beffa. È meglio allora dire che non si vuole fare questa riforma, è legittimo avere opinioni diverse. D'altra parte, l'abolizione delle province era nel programma del governo ed è nel programma del governo Letta, come lei sa, perché su questo tema noi abbiamo ottenuto la fiducia del Parlamento, quindi. Però certo, Ministro, no, ma è chiaro, ma il problema è che l'abolizione delle province è nel programma di molti governi. Cioè, mi dica un attimo, quando è che potrò smettere di contare queste settimane decisive? Cioè, io spero a dicembre. Spero a dicembre, entro metà dicembre speriamo che lei possa, come dire, trascorrere il Natale senza questo conteggio alle spalle. Va bene. Qualcuno dice che in realtà le vere spese pazze siano nelle regioni. Ha visto anche lei, anche l'ultimo caso, l'Emilia-Romagna, la regione tra l'altro da cui lei proviene. Non è il caso, non sarebbe il caso di abolire le regioni invece? In fondo le province sono meno dell'1% della spesa pubblica italiana, se le andiamo a svuotare. No, ma adesso il tema è, senz'altro possiamo avere molte efficienze in questo sistema italiano, però è chiaro che abolire le regioni o ridefinire i confini regionali è un'ambizione molto alta, mentre richiede una procedura molto lunga, complessa. Peraltro è un dibattito che non è iniziato da molto, è un dibattito recente, sulle province e le città metropolitane stiamo discutendo da anni, questo è anche uno dei motivi per cui credo che chi richiama a sé la necessità di maggior tempo, insomma, stia un po' anche usando questo argomento in maniera un po' strumentale, diciamo, ecco, perché ne stiamo parlando da tantissimo tempo. Le regioni certamente sono uno dei punti critici del nostro federalismo, perché si sono purtroppo trasformati in molti casi in enti molto burocratici e quindi abbiamo certamente un problema di migliorare l'efficienza delle regioni. Come lei sa, però, siamo in un regime anche, come dire, costituzionale che garantisce molto le regioni, è chiaro. Quindi si procede con semmai l'errore è stato fatto problema. Lì, diciamo, all'origine. Senta, sì, ministro Del Rio, io le vorrei chiedere qualcosa sulle tasse, perché voi state mettendo a punto anche il tema centrale della cosiddetta service tax, questa tassa che andrà a sostituire la vecchia l'IMU e la tassa sull'immondizia. Sì. Tutti gli italiani si chiedono: si spenderà di più o si spenderà di meno dal 2014? No, il governo ha messo a disposizione 1 miliardo per ridurre la pressione fiscale complessiva, ecco che diciamo la TARES più la IMU valevano una cifra intorno ai 6 miliardi quest'anno, quindi il governo ha messo a disposizione 1 miliardo e poi ha lasciato e lascerà ai comuni la facoltà di manovrare le aliquote secondo un principio di attuazione, ripeto, di un federalismo serio, che è quello che dice che i cittadini giudicheranno, a seconda anche dei servizi che ottengono, se la quantità di tasse che pagano è adeguata o meno. Quindi, cioè, c'è il rischio che qualcuno. La pressione fiscale dovrebbe diminuire, in linea di massima, ed obiettivamente dovrebbe diminuire. Poi, se qualche comune si sente in grado di chiedere di più ai loro cittadini per offrire servizi migliori, questo varierà da caso a caso. Cioè, diciamo, bisogna coprire 6 miliardi, 1 miliardo è messo a disposizione del governo, questi 5 miliardi ci saranno dei comuni che faranno pagare di più, ci sta dicendo, e alcuni che rispetteranno. Sì, è probabile che succeda così, può darsi che, anche sicuro che succederà così, qualche comune magari chiederà una tassa, un po' di tassa in più, qualcheduno un po' in meno, ma complessivamente, ripeto, la pressione fiscale deve diminuire e dovrà diminuire. D'altra parte non si può pensare di mettere in piedi una tassa che è fornita ai comuni e poi pensare che lo Stato controlli, cioè, come dire, i comuni la useranno a seconda dei loro bisogni. Lei dice, al limite, i cittadini dovranno vigilare e prendere anche le conseguenze dal punto di vista del voto rispetto a sì, è il famoso principio liberale del vedo, pago e voto. Io credo che un sindaco che vuole fare nuove opere, vuole fare nuove scuole, possa chiedere anche 20-30 euro in più all'anno ai suoi cittadini, nessuno scandalizzerà. Il problema, il vero scandalo, è se uno chiede tasse e poi non fornisce servizi adeguati. Questo certamente. Senta, gli ultimi 2 minuti, ministro Del Rio, è sul caso del giorno, il caso Cancellieri, perché riguarda un ministro del governo, una sua collega, un suo collega di governo. Le chiedo molto brutalmente, a lei suscitano imbarazzo queste telefonate, al di là, e poi il ministro Cancellieri domani spiegherà, ma c'è imbarazzo nel leggere il fatto che abbia alzato il telefono e abbia fatto una telefonata per sensibilizzare sul caso di Giulia Ligresti? A me no, perché conosco la sensibilità umana del ministro Cancellieri e quindi da questo punto di vista ho un punto di osservazione privilegiato, so che usa la stessa sensibilità verso tutti i casi e quindi capisco che per l'opinione pubblica questo suo interessamento possa creare qualche interrogativo in più, ma chi conosce il ministro Cancellieri sa che usa la stessa sensibilità verso tutti coloro che hanno condizioni critiche. Però in questo caso era una sua amica e lei non disconosce certamente l'amicizia con i Ligresti. No, però il caso diventa preoccupante se fosse una discriminazione nei confronti di altri, no? Quindi invece io credo che il ministro usi la stessa sensibilità verso tutti, questo lo dico perché ho visto più volte il ministro riferirmi delle condizioni dei carceri nelle varie città con grande sofferenza, quindi ho molta fiducia nel fatto che lei spiegherà con grande convinzione e riuscirà a convincere il Parlamento. Quindi rimarrà secondo lei al suo posto, deve rimanere lì? Io penso e spero di sì. Va bene, la ringrazio. Grazie ministro, grazie a voi, Graziano buongiorno. Del Rio per essere stato con noi, il ministro degli affari regionali. Insomma, come avete sentito, abbiamo parlato di province, di svuotare le province più che cancellarle, svuotarle nella loro funzione politica. Questo farebbe risparmiare 110 milioni di euro per non pagare più le cariche politiche, e quindi questo 110 milioni di euro potrebbe valere l'equivalente di 11.300 nuovi posti dell'asilo nido. E poi insomma ci ha parlato anche delle tasse, avete sentito la service tax, Tares e IMU prima erano 6 miliardi. Ora lo Stato mette a disposizione 1 miliardo per la nuova service tax. Questi 5 miliardi come verranno recuperati, cari cittadini? Può darsi che qualche comune vorrà aumentare le tasse, e altri invece non lo faranno. Comunque noi, anche con le vostre telefonate 800 24 00 24, parliamo tra poco, ci raggiungerà Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leone, a capire se davvero le province può essere un primo passo per tagliare la spesa pubblica italiana. C'è un nuovo commissario per la cosiddetta spending review. Dove dobbiamo andare a risparmiare? Le province sono appunto una goccia, se volete, nella spesa pubblica, però sono già qualcosa. Dove secondo voi bisogna andare a incidere nella spesa pubblica per davvero fare dei risparmi convincenti? Diteci la vostra. 800 24 00 24, tra poco approfondiamo. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:36 minuti. Allora voglio salutare subito il direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, Carlo Stagnaro. Benvenuto Stagnaro, come va? Buongiorno, tutto bene? Tutto se bene. Non andasse male. Se non andasse male. Allora, il ministro Del Rio ha promesso che io e ha detto che io potrò smettere di contare le settimane decisive per l'abolizione delle province da metà dicembre. Ha detto però anche evidentemente se non si riuscirà così vuol dire che proprio questa riforma non si vuole fare, che non è neanche del tutto scontato che non sia così, però vogliamo parlare e partire proprio da qui. Allora, il tema province è davvero questa, non è certamente la soluzione di tutti i mali, caro Stagnaro, però si dice è un paradigma di un qualcosa che in Italia non si riesce mai a fare, almeno sarebbe un segnale buono. Quanto inciderebbe nella cosiddetta revisione della spesa pubblica l'abolizione delle province? Ma ovviamente in questo caso le stime si sprecano, si va dalle stime più conservative che vengono dall'Unione delle Province Italiane, che parlano di poche centinaia di milioni di euro, a stime più elevate. Il mio istituto ragiona nell'ottica del 1,5 miliardi, 2 miliardi di euro all'anno. La Bocconi ha fatto una stima che si colloca poco sotto e che mi pare venga sostanzialmente accolta dal ministro Del Rio. Il punto però in questo caso, come in tanti altri, in qualche maniera è quello che diceva lei all'inizio, non è la pallottola d'argento, però la pallottola d'argento non esiste, lì c'è 1 miliardo, 1,5 miliardi, 2 miliardi, 500 milioni, scelgare la cifra, che si può risparmiare e che non si risparmia, e nelle condizioni attuali io credo che sia doveroso invece, ovunque ci sia la possibilità risparmiare di limare la spesa pubblica, farlo. Certo, c'è da dire che mettere questa cifra, 110 milioni di euro è la cifra che ha detto il ministro Del Rio, potremmo risparmiare dal punto di vista proprio delle prebende ai politici, valgono 11.300 posti nuovi per gli asili nido. Messa così effettivamente è un po', no? Anche come comunicazione politica è efficace, sembra quasi che non ci sono tanti posti nuovi perché ci sono le province. Beh, è efficace soprattutto perché mette in evidenza una grande verità. Quando si sceglie di non abolire le province o di non fare tante altre cose, si sta contemporaneamente rinunciando a una serie di altri interventi che si potrebbero fare con le stesse risorse. Che poi questi interventi siano aprire posti negli asili nido, che siano ridurre l'IRPEF, che siano tagliare l'IRAP, che siano investire nella costruzione del ponte sullo stretto di Messina è un altro discorso, ed è come dire un dibattito da svolgere a latere. Però è essenziale capire che anche per lo Stato, così come per i privati e per le aziende, i soldi non piovono dal cielo, uno li deve anzitutto produrre, nel caso dello Stato li deve estrarre dalla società attraverso la pressione fiscale, e poi se spendo un euro per fare una certa cosa non posso spendere lo stesso euro per farne un'altra. Quindi devo scegliere, è chiaro, no, ma politica. Poi ci concentriamo sulle regioni, anche perché io avevo letto con attenzione un suo articolo di recente sul Secolo XIX, nel quale diceva che quanto costa, visto lei lo concentrava sulla Liguria, sia perché se ne intende di quelle parti, sia perché c'era stata questa vicenda, una delle vicende di scandali di spese dei consiglieri regionali. Quanto costa per il cittadino, cioè rispetto allo reddito medio del cittadino ligure, mantenere i gruppi consigliari della regione Liguria? Sì. Ma soltanto in termini di finanziamenti ai gruppi consigliari, quindi come dire fuori tutta la macchina regionale, inclusa tutta la macchina che mantiene giunta, assessori, eccetera, consiglio regionale stesso, i gruppi consigliari della regione costano circa 138-140 anni del reddito ogni anno, ovviamente, del reddito medio di un ligure. Come dire che 138 cittadini liguri medi, sì, lavorano soltanto per pagare i trasferimenti ai gruppi della regione Liguria. In realtà il dato medio italiano non è molto distante da questo. 140 cittadini liguri lavorano per, ripeto, i soldi dei gruppi consiliari, e i gruppi, cioè non la giunta, il consiglio regionale, tutta la struttura, solo per dare i soldi ai gruppi consiliari, che poi li spendono a volte, si è visto anche come. Sentiamo anche i nostri ascoltatori, caro Stagnaro, cosa ne pensano e come si potrebbe ridurre la spesa pubblica. Gianluca da Viareggio, Gianluca, ciao, buongiorno. Te. Buongiorno. Ciao. Allora, io ce l'ho semplicemente con una cosa, con le consulenze. Allora, ogni qualsiasi comune, ente, microente, non importa cosa, assume gente per svolgere lavori. Dagli architetti dei comuni in giù si potrebbe scrivere un trattato su quanti impegni e impiegati ci sono, e lavoratori comunali, statali, eccetera. Poi consulenze molte volte miliardarie, addirittura il comune di Roma aveva come consulente una ex terrorista, va bene, sì, poco tempo fa, e queste consulenze sono fuori controllo, costano delle cifre iperboliche, se si facessero due conti sono delle finanziarie, sì, queste consulenze. Caro Gianluca, qualcuno aveva stimato in 2 miliardi di euro l'anno le consulenze delle pubbliche amministrazioni, che Stagnaro, certamente al di là della cifra, non so se lei ha una cifra da proporre, ma è il tema, cioè perché con tutte le anche qualificate presenze, perché sono qualificate all'interno della pubblica amministrazione, chiunque si deve rivolgere, anche il micro comune, ci dice Gianluca da Viareggio, per una consulenza esterna, perché vuol dire che il livello dei dipendenti pubblici non è in grado di soddisfare quelle esigenze, o c'è dell'altro, Stagnaro? Beh, naturalmente quella delle consulenze è una galassia estremamente variegata dove c'è di tutto, però bisogna in questo caso davvero stare attenti, nel senso che in molte occasioni hai bisogno del consulente esattamente perché la pubblica amministrazione è organizzata in modo tale da non riuscire a far bene il proprio lavoro, che può essere anche in parte organizzarsi in maniera differente. Noi parliamo oggi di spending review, per fare la spending review tutti quanti riconosciamo che c'è bisogno di un consulente, che è Carlo Cottarelli, sì, che nel caso di specie credo che lo faccia gratis o quasi. No, come gratis o quasi? C'è tutta la polemica sullo stipendio di Cottarelli, credo 700.000 euro in 3 anni. No, c'è. Allora me l'ho perso. C'è lo stipendio, no, gratis, Stagnaro non si fa nulla, non si fa nulla, anche perché ha lasciato il Fondo Monetario Internazionale per venire qui. Comunque c'è Carlo Cottarelli, se non ci fosse lui ci sarebbe un altro molto probabilmente, questo certo, e non può non esserci un altro. Il problema qual è? Pensare che il consulente possa fare tutto il mestiere da solo, possa fare tutto da solo. Se io prendo un consulente per riarredarmi la casa, il consulente mi può dare delle idee, ma anzitutto devo essere io a dargli degli input, gli devo dire se preferisco un arredamento classico o moderno, e secondariamente devo essere io, una volta che lui mi ha sottoposto una serie di opzioni, a farmi carico della decisione. Il problema nel modo in cui abbiamo affrontato la spending review negli ultimi anni e nelle ultime legislature è stata che noi l'abbiamo vissuto unicamente come un fatto tecnico. Certo, e si delega tutto a quello. Tra l'altro devo dire che abbia poi peraltro lo stipendio Carlo Cottarelli mi sembra anche giusto. Stagnaro ci ha chiamato come ascoltatore, ma leggo dalla redazione essere un assessore provinciale a Isernia. Si tratta di Gaetano Marucci, è così? Assessore, buongiorno. È vero, buongiorno. E lei ovviamente è qui a difendere l'indifendibile, mi permette. Ma guardi, questa le sembra una cosa ovvia, non sì. È così, perché non è che devo difendere le province perché io sono in carica, assolutamente. Sì, sì. Però guardi, se io e quei miei colleghi tutti quanti avessero la bella facoltà di poter salvare questa nazione semplicemente dimettendoci oppure andando a casa, lo faremo volentieri. Però ha sentito lei, ha sentito il ministro Delrio, dice intanto nessun dipendente perde il posto di lavoro. Certo, non ci saranno i turnover, io le do l'esperienza delle comunità montane. Sì. In Molise sono 10 anni che sono state chiuse, bene, i dipendenti sono stipendiati e non fanno niente perché non hanno nessuna mansione. Per cui questa è una grande presa in giro. Quello è il problema, andrebbero riqualificati, questo sì. Allora guardi, il problema è semplicemente questo, intanto se la sono presi con le province, semplicemente perché è l'ente più debole che è indifendibile, però è un ente, vi assicuro, che è un ente che amministra, e quando amministra il territorio, un territorio vasto, quello della periferia, è un ente validissimo, perché il vero problema sta nelle regioni, e lei lo sa bene, le regioni nacquero per avere contezza delle leggi da riportare. Però guardi assessore, che un po' l'ha riconosciuto anche Delrio quando ha detto ma le regioni è un po' più complicata la faccenda perché hanno più autonomia, è nel federalismo, e quindi cancellare le province è più facile se si volesse fare. Come lui ha dato questi dati, io le faccio il paragone con la mia regione. La regione Molise ha un budget annuale di 1.700.000.000 di euro. La nostra provincia, sa come si gestisce? Con 11 milioni di euro, la metà di quanto spendevano il gruppo regionale della regione Lazio. Ecco, questi sono dati che poi sono importanti da dove. No, ma questi dati però sicuramente... Però io ne volevo dire qualche soluzione. Aspetti un attimo, rimanga con noi, assessore, devo dare le informazioni sul traffico. Eccoci qua, allora, insieme a Carlo Stagnaro, assessore Marucci da Isernia, ci dica le proposte, perché per non essere solo quello che appare come difensore della casta delle province. No, guardi, io non voglio essere difensore, però ci dobbiamo dire le verità. Ecco, una delle verità che mi viene in mente è quella di mettere mano a tutto il sistema, cioè quando si parla del sistema della pubblica amministrazione, ecco, facendo un progetto organico in cui si va a rivisitare tutto il sistema, che è un sistema malato il nostro, queste sono le grandi verità. È quello che allora, dovrebbe fare il commissario, esatto. Allora, perfetto, guardi, io intanto eliminerei le autorità, perché le autorità, le varie autorità che sono sul nostro territorio, che vuol dire? Non fanno altro, le autorità, i prefetti, l'autorità di bacino, no. Io parlo di autorità, l'autorità dell'energia, l'autorità della comunicazione, e le varie autorità che dovrebbero prevenire, quindi fare azione di prevenzione, non fanno altro che rallentare il sistema e burocratizzare tutto l'apparato. Vediamo, guardi, qui c'è un economista, Stagnaro, che ne pensa? Eliminare tutte queste autorità che sono, cosa sono, uno spreco? Dovrebbero fare però, Stagnaro. Alcune forse sì, altre meglio di no, cioè l'autorità per l'energia, l'autorità per le comunicazioni e tutti gli altri regolatori dipendenti servono a far funzionare meglio il mercato, e poi voglio dire possiamo discutere di una, dell'altra ancora, però è difficile immaginare che il mercato dell'energia piuttosto che quello delle telecomunicazioni sarebbe meglio in assenza di un regolatore indipendente, ovvero se i compiti di regolazione fossero affidati a un ministero, perché come dire l'alternativa è questa, e quindi se fossero soggetti a una maggior influenza politica e una maggior ciclicità rispetto alle dinamiche elettorali. Però ancora una volta, a mio avviso, quando parliamo di riduzione della spesa non dobbiamo mai vederla come mettiamo il bilancio in mano a un consulente che trova la voce sprechi e la taglia. Sì. Dobbiamo vederla come un'occasione per riflettere da un lato su temi di natura puramente organizzativa. A noi l'amministrazione pubblica costa tanto perché funziona male, e se vogliamo che costi meno dobbiamo metterla in condizione di funzionare meglio. Secondariamente c'è dietro ancora una volta una scelta politicissima, cosa deve fare lo Stato e cosa non deve fare lo Stato. Sì, chiaro, sperare poi che arrivi, scelta... che arrivi poi Carlo Cottarelli, che potrebbe essere Pinco Pallino, potrebbe essere Carlo Stagnaro, che si mette lì e risolve tutto, e questo è il messaggio sbagliato, cioè non è che dobbiamo avere bisogno di mani di forbice, però Stagnaro, un attimo, vediamo, Marucci ha un'ultima proposta, che poi devo dare anche allora, altri ascoltatori. Io sono convinto che se noi non riusciamo a fare la semplificazione, di cui una parola che se ne parla troppo spesso ma si abbandona subito, noi non fa la vera semplificazione. Quando parlo, io le faccio un esempio eclatante che succede in tutte le province d'Italia. Bene, per avere così un conto proprio per poter trasportare, un cittadino mi ha chiamato perché aveva problemi, erano 2 mesi che aveva comprato un camion frigo, aveva speso quasi 200.000 euro, erano 2 mesi che lo teneva fermo. Sa perché? Perché ci vuole una commissione trasporti che gli dia l'autorizzazione per il conto proprio. Insomma, quindi eliminare, no, ma sburocratizzare, insomma, assessore, guardi, mi faccia dare anche altri ascoltatori perché altrimenti esondiamo. Intanto la ringrazio per aver chiamato, chissà, domani sarà anche lei a manifestare forse in piazza. Sentiamo Armando dalla provincia di Siena. Armando, buongiorno. Buongiorno, grazie per la trasmissione, complimenti. Senta, a proposito di questa abolizione delle province, io il mio modesto parere, sono un pensionato, credo che non vanno affatto abolite, e gli spiego in 2 parole perché. Se noi osserviamo il debito pubblico italiano, fino è schizzato proprio in alto, al massimo, da quando sono state istituite le regioni. Per cui, detto in 2 parole... sono le regioni il problema. Io toglierei tutti i parlamentini regionali, lasciando tutti gli uffici amministrativi, ovviamente, e le regioni e le province le lascerei al suo posto. Ma lei dice non è il problema quello delle province, ma delle regioni. Io, Stagnaro, ho letto l'inchiesta di Panorama, forse l'avrà fatto anche lei la scorsa settimana, dal titolo "Così lo Stato spreca 30 miliardi. L'ex presidente della Consip, cioè la centrale unica d'acquisto, Gustavo Piga, dice: se si uniformassero davvero tutte le amministrazioni a comprare ai prezzi dovuti per legge tutte le forniture, e invece di sprecare quello che fanno con una sedia, invece di comprarla a 200 euro la spendono 250, eccetera, insomma sprechiamo così 30 miliardi. Potrebbe essere una soluzione quella di la centrale unica d'acquisto? Perché mi sono arrivate segnalazioni di gente invece critica a dire: io spesso dai privati acquisto, gente che lavora nella pubblica amministrazione, acquisto a meno della centrale unica d'acquisto e invece sono obbligato per legge a uniformarmi alla centrale unica d'acquisto e faccio spendere di più i cittadini. Com'è la versione? Sì, anch'io sono scettico sulla centralizzazione degli acquisti, esattamente per questa ragione e anche per un'altra. Spesso alcune amministrazioni pagano di più lo stesso bene, la mitica siringa che costa 1 euro da una parte e 5 euro dall'altra, perché dove costa 1 euro pagano a 30 giorni, dove costa 5 euro pagano a 300 giorni. È chiaro che se io la pago a 300 giorni di distanza, lei non può pretendere che le faccia lo stesso prezzo di quell'altro. Come dire, rischia di essere questo ancora una volta la pallottola d'argento che non esiste. C'è un pezzo di verità nel tema dell'uniformazione delle modalità di acquisto e soprattutto delle procedure di acquisto, però non bisogna pensare che basti spostare l'ufficio acquisti dal comune di Domodossola alla Consip e il problema è infatti sciolto. Ma poi c'è la questione sempre questa: ma non ci potrebbe essere un sistema banale per cui si dà anche la possibilità di acquistare tra pubblico o privato, ma un controllo, che un dirigente che compra una pubblica amministrazione e si dimostra che poteva far risparmiare i cittadini e non l'ha fatto, non lo so, viene sanzionato, oppure viene rimosso, gli si dice: scusa, non sei in grado di fare il tuo lavoro, no? Banalmente, Stagnaro. Allora, la rimozione dei dirigenti della pubblica amministrazione, la possibilità effettiva di licenziamento, a mio avviso è uno dei passaggi cruciali. Noi non possiamo pensare di far funzionare una macchina quando il dirigente è sostanzialmente il responsabile, e più in generale, se parliamo di riorganizzazione, che come dicevo è uno degli strumenti per spendere meno, il tema della responsabilità è fondamentale, cioè ricondurre ciascuno a prendere scelte di cui paga le conseguenze. Faccio un esempio banale. Tradizionalmente, dico tradizionalmente perché vale oggi, 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, il sindaco di Roma si lamenta delle dimensioni del suo debito e chiede trasferimenti, fondi eccezionali, la capitale, eccetera, eccetera. E però lo stesso sindaco di Roma sta seduto su un patrimonio immenso che potrebbe vendere, per esempio, Acea, che è una società partecipata dal comune e vale in borsa quasi 2 miliardi di euro, la metà è in mano al comune, quindi 1 miliardo, potrebbe vendere per abbattere. Ma qui rientriamo, Stagnaro, nella responsabilità non solo politica, cioè non solo dei dirigenti della pubblica amministrazione, ma politica, e qui è un tema ancora più complicato. Mi faccio sentire un ultimo ascoltatore, Marco da Milano. Buongiorno Marco. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Lei dica. Io volevo solo dare un piccolo suggerimento che ho fatto con l'esperienza sulla mia pelle. Se si vuole risparmiare dei soldi, dico, ma è possibile che mai nessuno abbia calcolato quanti ospedali ci sono in Italia, quante cliniche private, quanti laboratori, ed ognuno di questi va da un minimo di 3 persone addette per riscuotere il ticket a un massimo di 15 persone degli ospedali più grossi, solo esclusivamente per riscuotere i ticket. Vabbè, ma lei che farebbe? Li lascerebbe tutti a casa? Non lo so. Guardi, no, io non le lascerei tutte a casa, perché io credo che il personale del pubblico non sia esagerato, no, ma è mal collocato. Questo infatti è una grande verità, l'abbiamo detto sempre, in base ai numeri non siamo superiori alla Germania come numeri, ma magari siamo poco efficienti. Ringrazio Carlo Stagnaro, così come prima il ministro Del Rio. Ci fermiamo qui anche per oggi con Miriam Lucchetti in redazione, insieme a Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi, Anita Panizza, tutti quanti, l'alpino Peter Pescapè. Vi diamo appuntamento a domani, seguitemi anche su Twitter, Alino Milan, questo è il mio profilo, a domattina 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.